Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno, buongiorno e buon venerdì a tutti da Deborah Rosciani dalla redazione di Salva Danaio. Allora, ve lo avevo annunciato ieri, ci risiamo, la Commissione Europea non perde l'abitudine di fotografare il comportamento delle banche e i costi dei conti correnti e l'ultima analisi, neanche a dirlo, ancora una volta fa emergere che in Italia paghiamo i costi più alti, in media 253 euro l'anno. Eppure pensavamo di non dover più affrontare questa polemica che ci aveva anche fin nauseato qualche anno fa. E invece ci dobbiamo di nuovo ritornare e soprattutto noi stamattina vorremmo farlo in maniera costruttiva, un po' perché onestamente anche a noi questa indagine della Commissione Europea sembra dare risultati un po' eccessivi, un po' improbabile, perché vorrei sapere da voi se effettivamente c'è qualcuno di voi correntisti che paga una cifra superiore ai 250 euro l'anno per la gestione banale del proprio conto corrente. Però ammettendo che a qualcuno di voi capita, perché magari fa più operazioni di un cliente medio, vorremmo capire quali possono essere i suggerimenti pratici per comunque individuare la strada del risparmio. Quanto costa allora il vostro conto corrente? Avete approfittato delle opportunità che il mercato ha offerto negli ultimi anni, il canale online, la possibilità di trasferire il rapporto di conto ad un'altra banca quando quella vostra tradizionale, quella di sempre, vi ha reso le cose un po' difficili, soprattutto le operazioni un po' troppo onerose, visto che adesso anche gli oneri per il passaggio da una banca ad un'altra sono inferiori rispetto al passato. Allora raccontateci le vostre esperienze, il tema del conto corrente è assolutamente trasversale, so che vi piace molto, vi appassiona. 800 24 00 24 è il numero verde per le vostre testimonianze che metteremo a confronto con le indicazioni invece di Vincenzo Tedeschi, responsabile marketing di IV Bank. Bentornato a Salva Danaio. Buongiorno a tutti. E benvenuto a Nicola Generani, responsabile marketing retail di Cariparma. Benvenuto a Salva Danaio. Grazie, buongiorno. Vi ho ricordato il numero verde, lo conoscete molto bene, vi ricordo anche il numero per inviare i vostri messaggi che è il 349-238-6666. La borsa ballerina stamattina, le quotazioni sui mercati europei erano partite con un indirizzo al rialzo, poi hanno perso tutto, sono andati in negativo, adesso la situazione è cambiata di nuovo, abbiamo una situazione di progresso per circa lo 0,2% a Parigi e Francoforte, Londra sta guadagnando mezzo punto e sta guadagnando mezzo punto anche Milano. Milano stamattina è sostenuta da Saipem che è in rialzo del 2,73%, il gruppo ha ricevuto un giudizio positivo di Goldman Sachs e Bank of America e dunque il mercato premia, anche Eni porta con sé più 1,25%, titoli del petrolio che vanno bene nonostante il greggio si sia riportato a 66 dollari al barile nelle ultime ore. Telecom più 1,40, Generali più 1,18, Fiat più 1,16, abbiamo un progresso di un punto anche sul Banco Popolare, su Unicredit, su Bulgari e su Parmalat. Segno in meno c'è su STM che è in calo di 2 punti, CIR perde 1 punto, Mediaset perde 1 punto, Finmeccanica ne perde lo 0,7% e Popolare di Milano meno 0,58. Euro su dollaro, l'euro ha riconquistato 1,47, soglia che aveva perso stamattina, ma soprattutto il dollaro da qualche ora ha ricominciato a fare la voce grossa verso la sterlina. La sterlina è ai minimi da 4 mesi sul biglietto verde. Lasciamo la borsa, lasciamo il mercato valutario, andiamo ad un'altra borsa, andiamo al costo che sosteniamo come correntisti per tenere appunto il rapporto di conto corrente con la nostra banca. Sentiamo un po' cosa dice la Commissione Europea. Ci risiamo. In Italia i conti correnti sono i più costosi di tutta Europa. E questa l'infelice sentenza della Commissione Europea. Un'inchiesta che fa tornare indietro nel tempo di almeno 4 anni, quando la polemica sugli oneri sostenuti dai correntisti italiani era diventato il tema all'ordine del giorno della cronaca finanziaria. Problema, con il tempo, ridimensionato grazie agli sforzi fatti dal sistema bancario per riguadagnare terreno in termini reputazionali e dell'aumentata concorrenza. Eppure Bruxelles torna a battere lo stesso chiodo, oggetto dell'indagine 224 istituti bancari che rappresentano l'81% del mercato europeo del credito. Indagine che conferma ancora il primato negativo per i costi praticati agli sportelli dalle banche italiane, inquadrati come i più alti in assoluto. 253 euro che rappresentano il costo medio annuo di gestione. più del doppio del Regno Unito, che ha un costo medio annuo di 103 euro, mentre la Spagna è la seconda più costosa ed arriva a 178 euro di media. Anche in tema di trasparenza i risultati non sono incoraggianti. Secondo la Commissione europea, nel 66% degli istituti esaminati gli esperti si sono trovati in difficoltà a decifrare i costi e sono stati costretti a consultare direttamente le banche per ottenere spiegazioni ed ottenere gli importi reali. In Italia questo problema si è riscontrato per la quasi totalità degli istituti investigati, ovvero per il 90%. Ma ancora una volta le banche non ci stanno. L'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, dichiara che le rilevazioni della Commissione tengono conto anche di commissioni e servizi ormai superati e che in realtà il costo medio di una gestione di conto in Italia è di soli 100 euro. Effettivamente anche a noi questi 250 euro sono sembrati un po' tanti, soprattutto se teniamo in considerazione il fatto che sono frutto di una media che dà come picco massimo anche un conto che può costare 800 euro. Io vorrei veramente avere delle vostre testimonianze e però pur avendo già qualche testimonianza di ascoltatore che dice io ho un costo di conto corrente molto basso, mi sposto frequentemente, per cui addirittura un ascoltatore dice se ci sono molte spese sul conto è perché le persone pagano perché non hanno interesse a pagare meno, quindi evidentemente a cambiare banca. Ci sono però anche altri ascoltatori che dicono i costi sono molto alti, soprattutto se uno, Angela da Brescia, fa un uso spregiudicato del bancomat. Angela, buongiorno. Buongiorno, salve. Purtroppo per mio marito faccio un uso spregiudicato del banco. Allora è colpa sua. No, a parte gli scherzi, però, Angela, lei si ritrova in queste 250 euro di media? Quanto paga l'anno? 250 tranquillamente. Poi uno non sta lì a fare il conto esatto con la calcolatrice che le verrebbe il mal di pancia. Ho cambiato spesso banca. E, il problema è che quando uno non può fare un prelievo allo sportello della sua banca, 2 euro al volta, ma andiamo a fine anno, vedrà che 250 euro più aggiunga i costi del conto, aggiunga uno, aggiunga l'altro, ti mandano le informative che come minimo devi essere laureato in economia e commercio per capire quello che ti vogliono dire. Qui qualcosa dovrebbe cambiare nei prossimi mesi. E comunque, insomma, lei si rispecchia completamente in questa indagine della Commissione europea, Angela. Sì, e soprattutto da parte delle banche, questo mi è successo proprio in prima persona, mai andata fuori conto, mai fatto niente. A causa purtroppo di un lutto mi sono ritrovata a non avere il tempo di fare un giro conto, per la mancanza di 50 euro sul conto mi hanno rimandato indietro un RID. Sì, però Angela, quando tu li lasci quelli va bene, abbiamo capito. Angela, la ringrazio molto per aver inaugurato con noi le telefonate degli ascoltatori di oggi. Allora, Nicola Generani, comincio con lei perché è per la prima volta che interviene a Salvadanaio, quindi marketing retail Cariparma. Tra l'altro stavamo proprio interrogandoci anche noi, un pochino addetti ai lavori, voi più di me, su come era possibile arrivare a queste 250 euro di spesa, ed effettivamente la prima motivazione che avevamo indicato era proprio questa: tanti prelievi magari al di fuori di quel tetto massimo che la banca ci dà come disponibilità pagando magari un forfè, fanno lievitare immediatamente il costo, e soprattutto se si va a fare il prelievo in una banca che non è la nostra il costo è salato. Sì, sì. Cosa ne pensi di questa testimonianza della nostra ascoltatrice e soprattutto dell'indagine della Commissione europea? Ma allora, parto dall'indagine della Commissione europea. Effettivamente sarebbe utile capire meglio la metodologia di calcolo, perché sia i dati comunicati dall'ABI ma anche i dati interni nostri di Cariparma ci vedono ben lontani da un costo sia medio ma anche come picco rispetto a quello che ha calcolato la Commissione. In generale sul costo dei conti correnti, quello che devono fare i consumatori, così come stanno facendo in tanti altri prodotti non bancari e iniziano a fare in maniera molto forte sui mutui, è proprio quella di informarsi. Ogni consumatore ha delle esigenze diverse, le offerte dei conti correnti sono diverse sia all'interno delle banche e tra varie banche, quindi è necessario che il consumatore capisca bene quali sono i suoi comportamenti, le sue esigenze, e poi faccia dei confronti. Venga in filiale, guardi sui siti internet, si informi, chieda, confronti, e sicuramente troverà quella che è l'offerta che poi va a soddisfare meglio le sue esigenze, minimizzando anche i costi. Un suggerimento che possiamo dare alla nostra ascoltatrice, sicuramente lei dice, insomma, alla fine dell'anno io non sto sempre lì a fare i conti, forse il conto corrente va monitorato in maniera un po' più frequente rispetto a quello che facciamo abitualmente. Lo guardiamo solamente quando ci arriva l'estratto conto? No, magari abituiamoci forse a fare una telefonata un po' più frequente all'impiegato di banca, sta lì per quello, per cui sicuramente Vincenzo Tedeschi, con il conto online il monitoraggio è molto più semplice. Io veramente lo faccio abbastanza frequentemente con il mio, guardi immediatamente quello che è il mio bilancio ogni giorno, perché almeno so quello che posso fare. Però lì siamo un po' sempre ai soliti discorsi: l'online non è ancora uno strumento per tutti, c'è chi ancora vuole assolutamente confrontarsi con l'impiegato. Certo, perché appunto la banca online in questo contesto, come dire, vince facile. È chiaro che, per quello che riferiva la signora, 2 euro di costo per un prelievo, visto dal punto di vista di una banca online, sembra un'assurdità. Da noi i prelievi sono sempre gratis, su qualsiasi sportello vengono fatti. Però quello che sicuramente lascia perplessi di questa indagine dell'Unione Europea, che forse magari non ha considerato le banche online, e anche la difficoltà da loro segnalata nel trovare e reperire i costi di questi conti correnti. Perché l'altro aspetto a cui faceva riferimento la signora è la mancanza di informativa o di trasparenza. È vero, devo controllare il conto corrente più volte l'anno, però se ci rendiamo conto che alcune banche sui propri siti web non hanno neanche i prezzi dei prodotti, è chiaro che il consumatore non riesce a confrontare, non riesce a essere informato. Noi la settimana scorsa abbiamo fatto questa chiacchierata con l'avvocato Giovanni Stagliano, responsabile del settore affari legali dell'ABI, e ci ha spiegato come voi banche dovrete adeguarvi a partire dal prossimo anno alla nuova direttiva della Banca d'Italia, appunto, che regola proprio il rapporto fra intermediari e clienti, all'insegna una nuova disciplina, all'insegna della correttezza, della chiarezza lessicale, della completezza, della comprensibilità degli estratti conto. Speriamo che almeno su questo fronte ci siano altri cambiamenti, in modo tale che prima che gli ispettori della Commissione Europea, noi riusciamo a leggere il nostro estratto conto in maniera comprensibile. Sì, giustissimo. Abbiamo sempre la nostra persona di riferimento in filiale o la banca telefonica a cui fare riferimento se si vogliono maggiori informazioni. Quindi è necessario proprio una presa di coscienza maggiore del consumatore, proprio che si attivi e chieda, perché siamo lì per rispondere a tutte le loro informazioni. E infatti. E allora, il costo del conto corrente questa mattina a Salvadanaio, alla luce delle nuove rilevazioni che sono state fatte e divulgate nei giorni scorsi dalla Commissione Europea, che ancora una volta dipinge l'Italia come quel paese dove si praticano i costi di gestione del conto corrente più alti d'Europa. La media emersa di 253 euro l'anno, per arrivare anche a degli estremi di 800 euro. Allora, secondo noi è una cifra un po' alta, però, e questo per rispondere ad un ascoltatore che me lo scrive, che cosa intende, mi ha scritto questo ascoltatore, per gestione banale del conto? Intendo una persona che magari ha un conto corrente dove accredita lo stipendio, ci paga un po' di bollette, fa un tot di prelievi durante l'anno, è una vita molto semplice. È chiaro che non siamo tutti così e ognuno di noi ha un profilo di consumo anche molto diverso e molti anche un po' più complicato, e questo fa lievitare il conto, come succede ad Antonella da Firenze. Antonella, benvenuta. Sì, buongiorno. Ora io non so se sono fuori tema. Ovviamente io parlo per un conto di un'impresa commerciale. No, non è fuori tema, Antonella, ci mancherebbe. Qui si parla di conti in cui viene attualizzato lo stipendio. Insomma, consideri che io in una giornata ogni carta è un movimento. Passo una carta al POS, è un movimento. Per cui ho dovuto fare un conto, come li chiamano, packaging, no? Per sì. Cui diciamo. E io pago 76 euro al mese. 76 euro al mese, compreso l'home banking, compreso le carte, bancomat. E qua arriviamo agli oltre 800 euro l'anno, perché siccome ci interrogavamo... Questo volevo dire, perché tra l'altro la cosa buffa è che io una carta, no, il carta bancomat che non uso mai, ma che per sbaglio l'ho fatta togliere perché ne avevo troppe, dissi togliemela, poi ho sbagliato nel rifarla, me l'hanno fatto pagare, perché la carta è gratuita solo nel momento in cui viene messa la prima volta. E quindi mi hanno fatto ripagare i 15 euro di carta perché non l'ho fatto insieme al contratto. Assurdo. Antonella, mi viene quasi... Sto muovendo perché ho trovato banche che a 25 euro al mese mi fanno... Brava, perché guardi, adesso io avevo notato quanto lei versa come canone mensile nel rapporto che è attivo in questo momento, 76 euro, ed effettivamente, pur avendo l'attività commerciale, Nicola Generali, ragionavamo, insomma, cari Parma, il fatto che comunque comunque, per quanto possa essere un imprenditore anche, non dico insomma benestante, che fa tante operazioni, è comunque un costo elevato, 800 euro l'anno, voglio dire. Ma bisognerebbe sicuramente vedere cosa è incluso in questo pacchetto che oggi ha la signora. Sicuramente, per essere più tranquilli che il costo è congruo rispetto a quello che viene offerto, facciamo un confronto con altri operatori presenti sulla piazza e vediamo se ci sono delle altre offerte che vanno più in linea con il profilo dell'attività della signora e che magari riescono a fare risparmiare qualcosa. L'emissione di una seconda carta bancomat a 15 euro? Un prezzo... Questo dipende un po' da quella che... Non so quale sia questo operatore, dipende un po' dalle politiche dei singoli istituti. È chiaro che anche qui chiediamo informazioni. Vincenzo Tedeschi, WBank. Tra l'altro, per un'attività commerciale è possibile piazzare tutto in un conto online, oppure comunque un'attività commerciale, un'attività imprenditoriale, anche se piccola come quella di molti ascoltatori che ci stanno chiamando, deve per forza di cose passare dal rapporto diretto con la banca? No, noi offriamo conti correnti per le attività commerciali e tra l'altro... Se l'online è proprio il canale che ci fa risparmiare molto oggi. Sì, diciamo. Anche quelli li offriamo a costi totalmente zero, quindi diciamo con noi è facile il confronto, zero totale sia sulla tenuta del conto che sulle operazioni. Allo stesso modo i clienti possono avere il POS piuttosto che i servizi di incasso, di emissione effetti. Probabilmente il problema di fondo, per quanti poi si lamentano anche di questi costi, è che poi manca il confronto, cioè effettivamente ci lamentiamo ma poi non abbiamo voglia di cambiare banca o di fare una navigata su internet, mettere su Google conto a zero spese e cercare un'altra banca che ci offre gli stessi servizi a costi più bassi o nulli. Come fate a fare una politica di costo zero, cioè su che cosa guadagnate? Mi scusi, perché molti ascoltatori ovviamente lo stanno già chiedendo, com'è possibile non far pagare niente su niente? Ma allora, intanto perché in realtà il costo del prodotto deve essere visto anche in un'ottica più allargata. In realtà quello che tariffa la banca è solo una parte del costo del prodotto. Faccio un esempio banale per spiegarlo. Mi serve un libretto degli assegni. Vado allo sportello, lo prendo e magari costa 2 euro. Mi serve un libretto degli assegni in una banca online. Clicco sul web e me lo recapitano a casa, magari gratis. La differenza di costo dei due servizi non è 2 euro. Perché per andare in banca, far la coda, parcheggiare, trovare parcheggio, trovare quell'oretta di tempo nel mio orario di ufficio, entrare, depositare gli oggetti metallici nell'apposita cassettiera, far la coda e poi prelevare il libretto degli assegni, magari quella mezz'ora mi è costata 50 euro. Quindi il modello online permette di abbattere i costi nel servire il cliente. Non abbiamo filiali, non abbiamo personale in eccesso in rapporto al numero dei clienti, abbiamo dei processi totalmente automatizzati. Il libretto degli assegni a casa viene spedito in automatico da un service esterno. Generani, Cari Parma mette insieme i due modelli. Sì, noi abbiamo un approccio multicanale, anche noi abbiamo un'offerta senza spese, il conto senza spese più, a seconda di quelli che sono dei comportamenti virtuosi da parte del cliente. Nel nostro caso ottenere più di 3.000 euro di giacenza sul conto porta ad azzerare completamente il canone. Quindi ci sono delle offerte non soltanto nel mondo online ma anche nelle banche che hanno lo sportello e quindi certo, il contatto tradizionale. Ci sono delle possibilità per andare a risparmiare e scegliere quello che è più giusto per noi. Mi tolgo una curiosità, perché noi stiamo invitando molto i nostri ascoltatori ad essere attivi. Allora, se ritenete che il rapporto di conto vi costi troppo, guardatevi intorno e cercate altro. E abbiamo scoperto che però magari spesso la nostra banca tradizionale, quella dove siamo clienti da 20 anni, ha in casa il prodotto più conveniente per noi, ma non ce lo fa sapere. Generani, ma voi la fate una telefonata al vostro cliente per dirgli: ma insomma stai pagando un po' troppo, ma cambialo questo conto, rimani con noi ma ti faccio il nostro conto più conveniente? O anche voi, non è che siete, non dico voi come Cari Parma, voi insomma come banca, sistema bancario in generale. Il contatto con il cliente è costante, c'è sicuramente molta consulenza su quello che è il mondo del risparmio, ma anche su tutto quello che è il mondo della transazionalità. È chiaro che il cambio delle esigenze del cliente deve partire soprattutto dal cliente stesso. Magari ho fatto 10 anni fa un conto in cui, quando ero single, non sposato, lavoratore, adesso ho una famiglia con due bambini, cambia il mio profilo, quindi devo essere anch'io che mi attivo, insieme al consulente, certo, che ogni tanto fa il punto della situazione. La banca sicuramente non ha il certificato anagrafico della famiglia, però magari i movimenti li vede se sono tanti, quindi insomma io invito invece le banche magari a guardarsi un po' meglio il parco dei clienti che ha, a vedere se le abitudini sono cambiate e magari a trattenerlo per dandogli qualcosa di meglio. Però insomma è un rapporto che deve essere ovviamente di scambio costruttivo reciproco. Cosimo dalla provincia di Taranto, buongiorno. Sì, pronto? Pronto, Cosimo. Ciao, salve, chiamo da Grottaglie, provincia di Taranto. Niente, io ho un conto corrente con la Fineco. Sì. E non pago assolutamente niente, insomma. Mm. E ho praticamente con l'accredito dello stipendio il conto corrente è gratis. Quante operazioni fa con il suo conto Cosimo? Perché anche quello ovviamente è fondamentale poi per capire come. Allora io praticamente posso prelevare da qualsiasi banca, posso prelevare, posso fare bonifici gratuiti. Sì, no, Cosimo, ho capito, io non voglio fare lo spot adesso alla banca, ho capito che conosco anche quell'istituto e so che cosa fa. No, chiedo a lei che esigenze ha? È una persona che fa molti bonifici, che fa molti prelievi? No, non sono una sì, faccio molti prelievi, però bonifici non ne faccio tantissimi, però insomma prelievi sì, ne faccio abbastanza. Quindi posso prelevare... Certo, anche per capire che insomma si ha l'opportunità di risparmiare su un conto, scegliendo un conto che costa poco, ma ovviamente avendo anche delle abitudini di consumo e di utilizzo di quel conto che sono limitate. No, ma grazie Cosimo. Cristiano da Modena. Sì, salve Cristiano, per la trasmissione. Dire Cristiano, mi scusi, noi non la sentiamo, io devo recuperare la sua telefonata, adesso la faccio richiamare e magari se lei si può mettere in una posizione un po' più favorevole per noi ci farebbe la cortesia. Giovanni da Isernia. Sì, eccomi. Cosa le è successo? No, niente, io volevo segnalare la mia su questo. Spesso mandavo delle proteste in forma di domanda, mettendo nella mail tutte le associazioni di difesa del consumatore, l'ABI, eccetera, eccetera, e la indirizzavo naturalmente alla mia banca. Ma sì, ma scrivendo che cosa? Faceva delle lettere così di protesta, tanto perché non aveva niente da fare, Giovanni? No, dicevo, non capisco perché ho avuto questa spesa in più questo mese sul mio conto, e qualche volta ho ricevuto dei rimborsi. Nel senso, la mia banca mi chiamava, il direttore mi faceva entrare in filiale e mi dava un assegno di 15 euro, 7 euro che potevo versare sul conto, e mi diceva: ma la prossima volta non faccio così, venga direttamente da me. Però questa cosa naturalmente non la faccio più, perché non ho tutto questo tempo di scrivere mail. Però quando facevo così ottenevo dei rimborsi. Ho capito, ma che tipo di spese le applicavano? Non ho capito, a quale titolo? Le variazioni del tasso di interesse, oppure spese che non riuscivo a capire perché erano segnate solo con un codice, quindi dovevo fare una ricerca nella leggenda della lettera che mi arrivava, eccetera. Queste piccole spese poi costruiscono 40-50 euro all'anno. Sì, che poi fanno la fortuna dei bilanci delle banche. Ma di domanda, ma mettevo nella mia mail, nell'indirizzo delle mail, insomma, anche le associazioni di capito, utilizzava il deterrente. Questi piccoli rimborsi da parte della mia banca. Una sorta di piccolo ricatto al direttore di banca, dice: guarda, insomma, se non mi rimborsi queste spese che io non capisco, ho messo a conoscenza di questa situazione le associazioni dei consumatori, non tutti però possiamo fare così, noi invitiamo invece ovviamente a mandare gli estratti conto totalmente trasparenti e magari contestandoli direttamente all'ufficio reclami della banca, senza necessariamente adesso sempre stare a chiamare. Vabbè, in ogni caso, Giovanni, le è capitato questo, noi speriamo che non sia necessario appunto cominciare ad invitare tutti gli ascoltatori a cominciare a scrivere lettere con le associazioni dei consumatori. Noi auspichiamo un miglior rapporto con la banca. Rimettete le cuffie perché riprendiamo le redini di Salvadanaio, l'ultima parte, il costo del conto corrente. Allora, stavamo un po' riflettendo su quello che era il messaggio utile da far passare dopo aver ascoltato la testimonianza del nostro ascoltatore di Isernia, che dice insomma, tutte le volte che mi accorgevo che il mio conto corrente c'erano delle spese che non mi tornavano, scrivevo la lettera al direttore e nella speranza che mi rispondesse concretamente mettevo in copia conoscenza anche le associazioni dei consumatori. Allora, io credo che non sia questa la direzione giusta dove andare, Nicola Generani. Però sicuramente dobbiamo far passare anche il messaggio che qualche direttore, io non so se il direttore ci prova perché mi pare anche brutto far passare questo di messaggio, e però insomma di azioni furbesche negli anni passati ne abbiamo raccontate anche altre volte, senza ritornare a quello estremo della Popolare di Lodi nell'epoca di Fiorani, che applicavano insomma le commissioni anche a clienti defunti ed estinti. Però non è un bel caso quello che ci ha raccontato l'ascoltatore. No, sicuramente non è un bel caso, ma non credo che sia la norma assolutamente. Sicuramente le banche devono fare uno sforzo verso una maggiore trasparenza e una maggiore facilità e semplicità nelle comunicazioni verso la clientela. Questa è una cosa che stiamo facendo e dobbiamo fare sicuramente tutti di più. È chiaro che poi il caso singolo, purtroppo, temo, rimarrà, ma non è sicuramente da prendere ad esempio comune, perché non... Ma quando un, quando un correntista incappa in situazioni come quelle che abbiamo ascoltato e lui insomma si attiva, ovviamente, ma mette in copia conoscenza l'associazione dei consumatori, il direttore si spaventa, lo chiama e gli dice non fare più così. Per evitare di arrivare a questo, insomma, cosa possiamo fare secondo lei? Possiamo lavorare verso la trasparenza delle comunicazioni, avere più chiarezza e dare gli strumenti giusti a ogni cliente per far presente con un reclamo alla banca, chiamando quello che è la banca telefonica, il call center, insomma, cercando di oggettivizzare un pochino di più questa comunicazione per evitare che sia sempre un rapporto che poi, insomma, viene gestito in una maniera poco trasparente come quella che ci raccontava l'ascoltatore. Cristiano da Modena, l'abbiamo riacciuffata. Salve, complimenti per la trasmissione. Grazie, ci dica. Sono un dipendente, privato, che voleva dire io, il conto corrente mio costa meno 34,20 €. Neanche i buoni dello Stato non pago. Con la banca Direct, sì, il conto corrente Arancio. Ero correntista con il signor Tedeschi a Milano, adesso l'IBUBank, però spese zero, ho trovato quest'altra banca, comodissima, non pago nulla, spese zero. Sì, Cristiano, guardi, io la sento a difficoltà per l'essenziale, Vincenzo Tedeschi. Sì, sì, sì, beh, ma è un degno concorrente, anche se non ha il livello di servizio che abbiamo noi. In ogni caso, l'importante è che poi alla fine della fiera sia contento Cristiano di quello che ha trovato, perché poi io credo che questo sia la cosa importante. Però ribadisco, adesso anche il miraggio del costo corrente a conto zero, che non è un miraggio, che è qualcosa di molto più concreto, però dobbiamo anche ribadire che ci sono delle situazioni di gestione del conto un po' più complicate, più non problematiche, proprio complicate per le nostre abitudini e quant'altro, che proprio tendere al costo zero è ovviamente difficile. Qui dobbiamo però capire qual è la capacità che abbiamo di individuarci noi come clienti, Vincenzo Tedeschi. Molto spesso neanche quello riusciamo a fare. Noi lo notiamo ogni giorno quando parliamo del mondo degli investimenti, quando parliamo del modo di costruirci la nostra pensione per il futuro. Non riusciamo a descriverci bene. E lì anche che la banca ci deve aiutare. Sì, ci deve aiutare in questo, perché tra l'altro uno dei costi peggiori, diciamo, che in cui possiamo incappare è il costo della perdita dei propri risparmi. Quindi in realtà è vero, i 200 euro sul conto corrente sembrano tanti, pochi, ma poi c'è gente che perde i 5.000, i 10.000 euro sui propri investimenti. E ancora una volta qui dobbiamo ricordare che in Italia esistono oramai banche con modelli diversi rispetto alle banche tradizionali e con modelli privi per esempio di conflitti di interesse, dove il prodotto che viene venduto al cliente non viene forzato commercialmente, non viene collocato per un'ottica di ricavi per la banca, ma va nell'interesse del cliente, e lì il risparmio sono dell'ordine dei migliaia di euro, perché sui propri risparmi poi si vanno a perdere quelle cifre che dicevo. È un modello diverso, un modello che sicuramente ha più trasparenza nei confronti del cliente, che mette i clienti tutti sullo stesso piano, senza appunto avere il direttore, andare a mercanteggiare, perché il modello di banca diretta, come diceva anche l'altro radioascoltatore, è un modello in cui c'è più trasparenza. I prezzi sono sul sito, addirittura per esempio noi abbiamo una bacheca sul sito dove i clienti possono lamentarsi apertamente, quindi non mettendo in copia le associazioni di consumatori, mettendo in copia tutto il mondo. Chiunque può leggere le loro lamentele. Pubblicate tutto? Pubblichiamo tutto. Ah. Il forum è aperto anche di notte, i clienti possono scrivere di notte anche quando la banca è chiusa. Non censurate assolutamente non nessun tipo di rilievo che vi viene assolutamente mosso. Assolutamente. Ne ricevete tanti? Tantissimi, saranno almeno 1.000 messaggi al giorno. Ma soprattutto rispondiamo a tutti. E gli altri clienti o anche chiunque può leggere le risposte che la banca dà. Quindi qui non ci nascondiamo dietro l'ufficio del direttore. Ah, 2 euro di bollite, li cancello. Perché se il direttore fa così, il direttore di WBank, tutti i clienti poi vengono a chiedere di cancellare quei 2 euro. Perché il cliente lo può scrivere in pubblico. Allora, abbiamo sentito Generani, di un cliente di WBank che hanno perso perché è andato con il conto della zucca. C'è Gianni invece da Parma e ci deve raccontare di qualche... ha avuto qualche problema con Cari Parma? Gianni, mi mette così in difficoltà col mio ospite? No, guardi... Non voglio assolutamente mettere in difficoltà nessuno, e cerco di essere breve. L'unica cosa è che io abbiamo uno studio di amministrazioni immobiliari, sì, per cui decine e decine e decine di conti correnti, che inesorabilmente stiamo chiudendo quotidianamente con Cari Parma per le problematiche che loro stanno avendo con le procedure Credit Agricole, per cui non c'è quella flessibilità nemmeno di qualche centesimo di euro quando si versano gli F24 il 16 del mese. dobbiamo correre in banca e portare i soldi, se no respingono tutto. Le cito solamente questa cosa. Quello che mi ha spinto a telefonare è che ho sentito una cosa che mi ha dato molto fastidio. La costante attenzione verso il cliente, la costante modo di rapportarsi a lui. Io con Credito Agricole avevo circa 40-50 conti correnti, penso che saranno rimasti 10-12, non abbiamo mai sentito nessuno. Banca Monte Parma fanno delle cose incredibili. Va bene Gianni, abbiamo capito perfettamente, veramente... ce n'è abbastanza per Generani, che credo tra l'altro molto onestamente abbia anche piena coscienza del problema, perché insomma stiamo parlando di un'integrazione che è stata anche un po' complicata, come è successo per tante banche nel nostro paese, perché basti parlare delle grandi fusioni che hanno generato mesi e mesi di difficoltà per tutti i correntisti. Gianni ha ragione. Allora, senza rispondere, perché tra l'altro non ho più neanche tempo, Generani, le posso far scrivere dall'ascoltatore per andare un po' a verificare che cosa gli è successo e come mai si è sentito così abbandonato dalla banca? Molto volentieri. Fortunatamente il caso è isolato, visto che stiamo crescendo come base cliente, abbiamo oltre 1 milione di clienti privati in tutta Italia. Grazie a Dio questi casi sono isolati. Ci possono essere stati in passato dei problemi, non abbiamo la migrazione informatica è completamente terminata, per cui invito l'ascoltatore a scrivermi direttamente per cercare di capire. Lei ha citato una cosa importante: la migrazione informatica. Molto spesso il cliente viene schedato, etichettato da un database, e molto spesso, come dire, però il rapporto con lo sportello, che dovrebbe essere più umano, qualora si privilegi invece dell'online questo tipo di rapporto, è importante. La filiale è sempre lì, per cui se ci sono stati dei problemi di relazione cerchiamo di capire cosa è successo, quindi sono a disposizione dell'ascoltatore per cercare di capire la situazione nel concreto. Allora, io non riesco a sentire Silvio da Verona, perché voleva raccontarci che in realtà poi, come dire, si può anche avere un conto corrente che fa il caso nostro risparmiando, pur mantenendo il rapporto tradizionale, senza necessariamente andare per forza a scegliere il canale online se non ci piace. Io devo terminare qua la nostra trasmissione, ma in ogni caso vedo che come al solito le domande e le considerazioni che sono arrivate sono tante. È un tema che dobbiamo continuare a monitorare attentamente. Grazie a Vincenzo Tedeschi di WBank e Nicola Generali di Cariparma per essere stati con noi. Noi ci sentiamo lunedì e parleremo degli sconti per comprare la bicicletta nuova. C'è il nuovo pacchetto di incentivi che è stato varato, parte proprio da oggi. Speriamo che non vada di nuovo in tilt il sito del Ministero dell'Ambiente, dove bisogna fare la domanda appunto per ottenerli. Allora, a lunedì. Buon fine settimana a tutti.